cacciato dalla mole incandescente di una nuvola di male tumbula del regno Yankee. Perché si sta pian piano demolita dalle botte sgretolando l'ossatura di quest'incubo colonialista, stelle, strisce, bombe, fentanyl. Così è presto decisa la missione Cacassi. Sto bellico e gli play ripieni d'estate. Sfreccia fra i radar schivando le intercettazioni degli AWACS e i Global Hawk, per poi scagliargli in testa piscio in busta.